È il senso di questa iniziativa all'interno dei musei. Ecco, quello che negli ultimi tempi tutti i musei stanno facendo è enfatizzare quest'ultima parte, enfatizzare la parte della comunicazione. E quindi oggi possiamo dire che i musei da esposizione di oggetti sono sempre di più dei dispositivi che costruiscono narrazioni. Quindi quello che considerano tutti i musei è che ogni oggetto ha inscritto all'interno di sé un numero molto vario di narrazioni. E ogni volta che noi proponiamo una narrazione, nascondiamo le altre, dobbiamo quindi mano a mano raccontare tutte le possibili narrazioni che ci sono all'interno di un museo. Ecco, quello che è interessante di questo progetto è che ci possono essere delle narrazioni che vanno oltre questo elemento e quindi che il museo come dispositivo narrativo possa addirittura contenere delle narrazioni che hanno un rapporto ambiguo se esiste, ma possono non avere un rapporto addirittura con quelli che sono gli oggetti all'interno del museo, ma pur tuttavia sono una narrazione interessante. Questi appunti per una visita guidata mi sembra che rientrino in questa funzione. Il secondo punto è Pasolini all'interno del nostro museo. Casualmente Pasolini all'interno del nostro museo c'è da un lato e dall'altro c'è come presenza per sottrazioni. Dov'è che Pasolini lo si può trovare? Beh, c'è una incerta attribuzione all'interno dei funerali di Togliatti di Gutuso, che tutti voi avete visto, della presenza o meno di Pasolini. Chiaramente si vede Visconti, si vede Trombadori e Vittorini, De Filippo, Carlo Levi, Renato Guttuso stesso che si è fatto, Gian Giacomo Feltrinelli. Poi c'è un viso che potrebbe essere Pasolini. E ricordiamo che i funerali di Togliatti hanno un altro legame con Pasolini, proprio perché in Uccellacci e Uccellini tutti ricordiamo quella scena magnifica con Totò, padre di Nineto, che cominciano a guardare queste scene struggenti dei funerali di Togliatti. Quindi Pasolini, funerali di Togliatti, c'è un doppio rapporto, nel senso che i funerali di Togliatti sono all'interno di Uccellacci e Uccellini, e nello stesso tempo Pasolini potrebbe essere 80%, 70%, 90% iscritto all'interno dei funerali di Togliatti e di Gutuso. E poi invece c'è una presenza per sottrazioni. La visita che viene fatta è una visita che può fare riferimento sia alla mostra temporanea di Giannotti, sia alla collezione permanente che voi sapete che interseca con il Museo Morandi. Perché dico presenza per sottrazione? Perché Pasolini alla fine degli anni 30, come sappiamo, è iscritto a Lettere e Filosofia a Bologna e andava alle lezioni di storia dell'arte di Roberto Longhi, che era un grande ammiratore di Giorgio Morandi. E domandò di fare la tesi di laurea a Roberto Longhi e il titolo della tesi di laurea era Correnti principali dell'arte contemporanea in Italia. Poi nel 1943 la famiglia Pasolini si spostò a Casarsa e lui a Casarsa lavorò perché era nella tranquillità della campagna, lavorò e fece i capitoli su Carrà, De Pisis e Morandi. Poi venne chiamato Pasolini alle armi e mentre andava a prendere servizio ci fu l'armistizio. Quindi, come tanti, successe che fuggì, non si presentò e quando lui si perse in questo periodo aveva con sé questi capitoli della laurea. E quindi questi capitoli della laurea andarono perduti perché lui li aveva presi perché li doveva portare da Longhi. A questo punto non si sa per quale ragione, avendo perso tutti questi capitoli, decide non di continuare a fare quella tesi, quindi il lavoro di Morandi che lui aveva fatto, ma cambia tesi e difatti sappiamo che la sua tesi è l'antologia della lirica pasoliniana, pascoliana, scusate. Ecco, e quindi curiosamente c'è anche questo rapporto all'interno del nostro museo, perché il Museo Morandi è un museo che per assenza è presente nella storia di Pasolini, perché il capitolo dedicato a Morandi è andato perduto in quel frangente dopo il settembre del 43. Ecco, questi sono alcuni elementi che casualmente, perché poi la scelta di Mambo non è stata fatta per questa ragione, ma questo che ci fa dire è che probabilmente qualsiasi luogo si trovi e tanti luoghi si trovano, ci possono essere delle relazioni di qualche tipo con Pasolini.